Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Incendio all'ILCAM di Curmons, azienda del settore del mobile. Rogo partito forse da un macchinario, accertamenti medici per alcuni operai. Più pacchi e si lavora fino a tardi, parla un corriere Amazon. Con i nuovi turni situazione è nettamente peggiorata. Udine e Trieste nella top 5 census delle università italiane con un numero di iscritti tra 10 e 20.000. A Trieste in fase avanzata il recupero di due primi padiglioni dell'ex OPP, ospiteranno attività universitarie. A Fernetti sequestrati 4.500 capi di abbigliamento con marchio contraffatto, viaggiavano su un tir rumeno. Alla Barcolana ci sarà la prima esposizione dello scheletro della balenottera di 10 metri spiaggiata un anno fa a Muggia. Il CAI di Cervignano compie 25 anni e parte per una spedizione in Bolivia tra alpinismo e impegno sociale. A Trieste questa sera il concerto di Robbie Williams, 28.000 biglietti staccati per l'ex Take That, trasporti straordinari e limitazioni al traffico. Claudio Magris e Alexandre Sokurov a Gorizia sull'intelligenza dei confini, tappa della milanesiana di Elisabetta Sgarbi. 12:31 minuti, 30 secondi, buongiorno da Daniele Lettige e Rita Micoli, apriamo subito con una notizia di cronaca. Un incendio è divampato intorno alle 8 di questa mattina all'ILCAM di Curmons, azienda che produce ante per il settore del mobile, ed è stato domato dai vigili del fuoco nel giro di qualche ora. In base alle prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato a partire da un macchinario aziendale del reparto verniciatura. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la scintilla. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco assieme ai sanitari. Due operai sono stati elitrasportati all'ospedale triestino di Cattinara per accertare eventuali inalazioni di fumo. Carichi di lavoro moltiplicati per i magazzinieri del centro Amazon di Fiume Veneto e per i corrieri che si occupano della distribuzione dei pacchi. Di ieri la denuncia della CGIL. In questo servizio la testimonianza di uno degli addetti alle consegne che lavorano per il colosso globale dell'e-commerce. Possiamo dire che per te, per voi, il lavoro è peggiorato? Sì, è peggiorato tanto. Raccogliamo la testimonianza di un corriere del centro di smistamento Amazon di Fiume Veneto che da una settimana ha introdotto nuovi orari posticipando il turno fino a un massimo di 40 minuti. Questo consente di ampliare le fasce orarie per gli ordini online e ricevere le consegne entro il giorno successivo a scapito però dei lavoratori, come ci racconta uno di loro. Adesso ci danno più pacchi. Cioè rispetto a prima, da 180 siamo arrivati a 200-220 pacchi, poi per il fatto delle, cioè prima quando iniziavi prima arrivavi già presto alle prime fermate, adesso arrivi più tardi e quindi la maggior parte dei negozi e delle attività li trovi chiuse, poi anche per il fatto delle autostrade che non possiamo più prenderle, c'è traffico come estate, quindi c'è più traffico, c'è più rischio di incidenti e quindi ci fanno fare le statali, poi con il caldo che fa adesso quindi è ancora più faticoso perché tu praticamente esci verso mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno, quindi già quando fa più caldo, più traffico. Quante pause hai? Praticamente una pausa la mattina da 10 minuti, un'altra da mezz'ora e un'altra da 10 minuti di pomeriggio. Però se tu metti caso che alla mattina ti becchi un incidente e stai fermo 40 minuti, la pausa praticamente è saltata. La FIL CGIL contesta la variazione unilaterale dell'orario e chiede un tavolo di confronto urgente con l'azienda. Cristiano Danelon, FIL CGIL. Vogliamo avere un incontro anche con Amazon, perché comunque Amazon è il committente e non ci basta parlare solo con i subfornitori, perché giustamente i subfornitori dipendono dalle decisioni di Amazon. La situazione in questo momento è monitorata il più possibile, se domani non riuscissimo a trovare una soluzione è chiaro che dovremo passare a qualche decisione più incisiva. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una mozione urgente per chiedere misure ordinarie e straordinarie per la sicurezza degli alloggi ATER, in particolare quelli dei quartieri triestini di Borgo San Sergio e Valmaura. La propongono i consiglieri comunali Luca Salvati e Lorenzo Barbo del Partito Democratico, assieme ai consiglieri della settima circoscrizione. Intanto i residenti sono esasperati. Ci aggiorna Andrei Marusic, che è qui con noi in studio. Martedì scorso l'ennesimo episodio vandalico, 4 vetture date alle fiamme, l'ultimo incendio doloso in una lunga serie nella zona est di Trieste. Tra i residenti delle case alter di Borgo San Sergio, le case dei Puffi, cresce la preoccupazione e il malcontento. Ci vogliono misure ordinarie e straordinarie. La denuncia è del Partito Democratico, che chiede l'impegno del Comune di Trieste, della Giunta regionale dell'Ater e delle forze dell'ordine. Nello specifico, i consiglieri comunali d'opposizione, Luca Salvati e Lorenzo Barbo, assieme ai consiglieri della settima circoscrizione, chiedono il trasferimento in sede di assestamento di bilancio regionale un'ulteriore quota da destinare all'Ater di Trieste, il rinforzo dell'illuminazione e il potenziamento della videosorveglianza nei luoghi dei fenomeni criminosi. Inoltre i consiglieri chiedono al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza una presenza costante delle forze dell'ordine nella zona. La richiesta del PD prevede anche l'impegno della Regione nell'attivare nelle zone ATER ad alto rischio il progetto Educativa di Strada per i più giovani. La mozione, se verrà riconosciuta l'urgenza, potrebbe essere discussa in Consiglio Comunale il 28 luglio. Grazie ad Andrei Marussic. Adesso proseguiamo con la cronaca. La Guardia di Finanza di Trieste ha sequestrato al valico di Fernetti più di 4.500 articoli di abbigliamento contraffatti, trasportati da un autoarticolato proveniente dalla Romania, che erano in entrata nel territorio dello Stato. Nel rimorchio del mezzo c'erano numerosi bancali di diverse tipologie merceologiche, tutte cartolarmente destinate in Spagna. In 4 bancali etichettati come abbigliamento da lavoro, all'interno erano invece contenuti prodotti di noti brand del tutto identici a quelli originali: t-shirt, felpe, tute, scarpe, vestiti da bambini, lenzuola e copriletto con loghi Adidas, Nike, Burberry, Hermès, Calvin Klein, Chanel, Christian Dior, Fendi, Gucci, Yves Saint Laurent e numerosi altri che, se immessi in commercio, avrebbero prodotto profitti illeciti per più di 1 milione di euro. Le indagini coordinate dalla Procura triestina sono ora dirette a individuare i reali destinatari della merce per disarticolare in Italia e all'estero la filiera illecita. Indagato il conducente del camion. Ed è stato arrestato dalla polizia di Como un uomo evaso dal carcere di Pordenone, dove era detenuto in regime di semilibertà. Cittadino nigeriano, 26 anni, residente in Friuli, dal 10 luglio non faceva più rientro nel penitenziario della destra Tagliamento, nella casa circondariale di Pordenone, dove era appunto detenuto. È stato individuato da una pattuglia della polizia di frontiera di Ponte Chiasso durante un controllo delle zone confinanti con la Svizzera. In ripetute occasioni aveva già violato le disposizioni della semilibertà, che gli è così stata revocata con un apposito provvedimento di sospensione e il ripristino della misura detentiva. I 2 atenei del Friuli Venezia Giulia si piazzano nella top 5 dell'annuale classifica del Censis tra quelli considerati di fascia media, quelli cioè con un numero di iscritti tra 10 e 20.000. Un avanzamento di 2 posizioni per Trieste, che dal 7° posto del 2024 sale al 5°. Una conferma invece per Udine, che mantiene la 2ª posizione dietro a Trento, riconfermata leader di questo segmento. La graduatoria è costruita mettendo assieme dati relativi alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio e agli altri interventi in favore degli studenti, e ancora al livello di internazionalizzazione, alla comunicazione ai servizi digitali e al tasso di occupabilità dei laureati. Allargando il campo, il rapporto Censis conferma a livello nazionale il primato dell'Università di Padova, che per il 2° anno, dopo quasi 3 lustri di incontrastato dominio, mantiene la testa della graduatoria davanti a Bologna. Al 3° posto l'Università di Pisa, che supera la Sapienza di Roma. Per quanto riguarda le immatricolazioni rispetto al 2024, sono cresciute del 5,3%. In particolare negli atenei del centro Italia, mentre gli ambiti che attraggono di più le matricole sono quelli economico-giuridico e quello delle materie STEM. Ed è cominciata ieri nella sede universitaria di Gorizia la 31ª edizione della Bovez Summer School, organizzata dalle università di Trieste e di Udine. Un'iniziativa formativa internazionale, interdisciplinare e multilingue, che coinvolge studenti e docenti di 7 atenei italiani, sloveni, croati e austriaci, che saranno coinvolti in diverse attività, come ci spiega Cristina Beretta, docente dell'Università di Klagenfurt e direttrice scientifica della scuola. Il tema di quest'anno della Bovez Summer School è Nazione e Narrazione, Lingua, Cultura e Identità in una prospettiva europea. E il tema di quest'anno è legato anche all'ottantesimo anniversario che si celebra quest'anno in Europa, la liberazione dell'Europa, del continente europeo dal nazifascismo. Diciamo che il tema è stato scelto a fronte di questi fenomeni emergenti all'interno del continente europeo, in qualche modo anche di matrice, diciamo, nazionalistica. Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, alla sconfitta del nazifascismo, insomma, i vari paesi dell'Europa occidentale hanno sperimentato un periodo di stabilità, prosperità economica e benessere sociale. Tutto questo mi sembra, insomma, legato al consolidamento della democrazia, della pace, anche al processo di integrazione europea. E adesso, diciamo, per concludere, attualmente è evidente che l'Unione Europea ha bisogno di riforme, ma attualmente è oggetto di una messa in discussione molto forte, insomma, generalizzata da parte di narrazioni che semplificano i problemi sociali ed economici europei, spesso riducendoli a fenomeni, diciamo, nazionali. Quanti sono i partecipanti alla Summer School? Da dove vengono e quali sono le attività in cui saranno coinvolti? Quest'anno abbiamo 32 partecipanti, sono studenti e studentesse dell'Università di Trieste, di Udine, di Ljubljana, di Copa, di Rijeka e Osijek, perché è un progetto, una collaborazione, questa scuola estiva, fra 7 università in 4 paesi. Al mattino i partecipanti e le partecipanti hanno circa 4 ore di corsi di lingua intensivi, insomma, e nel pomeriggio vi sono varie attività, tra cui laboratori, escursioni, serate di letteratura che vertono sia sul tema del multilinguismo, ma anche sul tema generale di quest'anno. Riqualificazione in corso nel Parco di San Giovanni a Trieste. I padiglioni F1 e F2 del comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico sono oggetto di un recupero architettonico e funzionale da parte dell'Università da oltre 10 milioni di euro, di cui 7 finanziati dalla Regione. La conclusione dei lavori avviati nel 2022 è attesa per la prossima primavera. Acquisiti dall'Ateneo per ospitare attività didattiche, di ricerca e servizi, restituiranno alla città anche un pezzo importante della storia del Novecento triestino. Il padiglione F1, noto come padiglione Uomini Tranquilli, ospitava pazienti maschi in condizione di stabilità, mentre l'F2 era destinato alle cucine del complesso ospedaliero. Il primo, dallo stile eclettico e dove i lavori sono praticamente terminati, ospiterà attività universitarie di alta formazione, ricerca e collaborazione interistituzionale. L'edificio F2 è in fase di rifunzionalizzazione per ospitare principalmente attività didattiche, spazi di aggregazione e iniziative rivolte alla comunità universitaria, ma non solo. È previsto l'allestimento di una moderna aula magna e di altre 4 aule capienti. Prossime tappe: il recupero del padiglione F3, di cui è già stata deliberata l'integrale copertura economica, e del Gregoretti 2, di cui sarà pubblicata a breve la gara per la progettazione definitiva. Sono iniziate a Trieste le operazioni di recupero dei resti della balenottera comune di 10 metri rinvenuta sotto i pontili di Porto San Rocco a Muggia a fine agosto dello scorso anno. A coordinare le operazioni i ricercatori dell'area marina protetta di Miramare, con la Capitaneria di Porto e il nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza. Nonostante la ridottissima visibilità a quasi 20 metri di profondità, i tecnici subacquei sono riusciti a riportare in superficie buona parte della colonna vertebrale dell'esemplare, dalla coda fino alle prime vertebre cervicali. Molto rilevante da un punto di vista scientifico anche il recupero dei fanoni della balena, già trasportati verso Miramare per evitare il rischio che andassero dispersi. A Grignano i reperti sono stati affidati ai veterinari dell'Università di Padova, che avranno il compito di ricomporre i resti e dare così una seconda vita alla balenottera, con un primo obiettivo, la ricostruzione parziale dello scheletro e la sua esposizione alla Barcolana 2025. L'ultima immersione, a marzo, aveva evidenziato che buona parte del corpo, per degradazione naturale o per predazione, si era ormai decomposto. Le pinne pettorali, le cosiddette mani, la testa e altre ossa giacciono al sicuro ancora in fondo al mare e, anche se in parte ancora ricoperte da tessuti molli, dovranno essere a breve recuperate per poter ricomporre lo scheletro nella sua interezza. Tra le ipotesi, una collocazione finale dell'esemplare nel futuro Museo di Storia Naturale in Porto Vecchio. Questa sera alle 18:30 nella sala consiliare del Comune di di Cervignano, la locale sezione del Club Alpino Italiano Giusto Gervasutti presenterà i partecipanti alla spedizione in Bolivia in partenza il prossimo 23 luglio, organizzata in occasione del 25esimo anniversario della sezione. Un viaggio alpinistico di 2 settimane che, oltre alle ascensioni sulle Ande, avrà anche un obiettivo di cooperazione con le popolazioni locali. Ce ne dice di più il presidente del CAI di Cervignano, Ivano Roppa. Questo è un progetto nato un anno fa e consiste in una spedizione alpinistica e di solidarietà in Bolivia, nella Cordillera Real, e ha come duplice obiettivo quello di sostenere un progetto solidale locale che è già esistente ed è la costruzione di un centro polifunzionale a Peñas, nel distretto di Peñas, che ha lo scopo di ospitare i ragazzi locali, i ragazzi boliviani, per dare loro un'istruzione e una formazione anche per diventare guide andine, quindi dare loro la possibilità di lavorare in quei posti lì senza dover migrare. Il secondo obiettivo, che è altrettanto importante, per dire la verità forse è il primo con cui siamo partiti con questo progetto, è quello di consolidare un gruppo di giovani alpinisti della sezione di Cervignano del Friuli, in maniera che possano un domani portare avanti il futuro della sezione. Quanti sarete quindi a partecipare e quali ascese, quali escursioni prevede questo progetto? Saremo in 14, di cui 3 donne. Il programma prevede una prima settimana di vari trekking ed escursioni per acclimatarsi e abituarci all'altitudine, e poi una prima ascesa, la più importante, del Huayna Potosí, che è un vulcano alto 6.088 metri, e l'obiettivo è quello di salirci tutti quanti. Nella seconda parte della spedizione il gruppo probabilmente si dividerà in 2, gli alpinisti, quelli un pochino più esperti, e tenteranno la salita di un altro 6.000, l'Illimani, mentre l'altro gruppo probabilmente andrà a visitare Salar de l'Uyuni, questo lago salato che c'è lì in Bolivia, molto, molto pittoresco. 12.47, siamo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi, mare mosso con temperatura di 23 gradi e 5 decimi. A Gorizia 27 gradi, a Udine 26, a Pordenone 24 e 5 decimi. A Tolmezzo 22, a Forni di Sopra 21, a Sappada 18, sul Piancavallo e a Tarvisio 17. Sul Monte Zoncolan 13 gradi e 5 decimi, sul Monte Lussari 11 e 5 decimi. Sulla costa a Grado 27 gradi e 5 decimi, con temperatura del mare di 25 e 5 decimi. A Lignano 25 gradi, temperatura del mare 26 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA. Questo pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, sulla costa soffierà bora debole o moderata, ma in progressiva attenuazione nel corso del pomeriggio. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, venti a regime di brezza. E ora gli spettacoli a Trieste. Oggi è il giorno dell'attesissimo concerto di Robbie Williams, sold out, con i suoi 28.000 biglietti venduti per il concerto allo Stadio Rocco, dove ci sono già tanti fan in attesa dell'apertura dei cancelli. Alle 21 l'esibizione inserita nel cartellone di Nova Gorizia, Gorizia capitale europea della cultura. In vista della grande affluenza sono stati predisposti 3 parcheggi di interscambio al Saba Silos di Piazza Libertà, al Monte d'Oro Shopping Center di Muggia e al supermercato Eurospar di Via dell'Istria. Previsti servizi aggiuntivi di autobus navetta che collegheranno i parcheggi allo stadio dalle 15 fino a dopo la conclusione del concerto. E nella notte, sempre dopo il concerto, treni straordinari sulle tratte Trieste Centrale Portogruaro e Trieste Centrale Sacile. Durante il telegiornale delle 14 ci collegheremo in diretta con Francesca Terranova per questo grande evento musicale. E cambiando genere, questa sera torna ad esibirsi in regione anche uno dei più celebri solisti al mondo, il violinista Uto Ughi, che nella Basilica di Santa Eufemia di Grado alle 21 eseguirà, lo state sentendo in sottofondo, la celebre Quattro Stagioni di Vivaldi, accompagnato dalla Venice String Orchestra nell'ambito della rassegna Musica a 4 Stelle 2025. Ancora musica, perché questa sera a Gorizia la Piazza Transalpina ospiterà uno dei concerti di punta del programma di Go 2025. Con ben 120 artisti ospiti del pianista Alexander Gadiev, ambasciatore della capitale europea della cultura. Non solo il concerto si svolgerà simbolicamente proprio sul confine di Stato, ma anche il programma è concepito al confine tra diversi generi musicali e comprenderà sia musica strumentale che vocale. L'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, ICM, storica associazione goriziana fondata nel 1966, ha rinnovato il proprio consiglio direttivo. Alla guida dell'istituzione è stato nominato Andrea Vacchi come presidente, affiancato dai consiglieri Giuliana Parotto, Massimiliano Zollia, Vanni Feresin, Romeo Pignat ed Elena Guerra. L'ICM dedica la sua attività alla promozione della cultura della convivenza transfrontaliera e delle culture mitteleuropee. Nato con una visione pionieristica, superare la claustrofobia della cortina di ferro e ricomporre un tessuto di relazioni, valori e tradizioni spezzato dalle guerre mondiali. L'Istituto ha scelto fin dalla sua nascita il dialogo culturale come strumento per abbattere barriere visibili e invisibili e stabilire ponti tra le comunità. E tra letteratura e cinema è ancora il tema del confine, il cuore della straordinaria tappa regionale in regione della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi. Serata d'eccellenza ieri per il cartellone di Go 2025, Gorizia, Nova Gorizia, capitale europea della cultura, che ha ospitato il regista russo già Leone d'Oro a Venezia, Alexander Sokurov, noto al grande pubblico per opere straordinarie come Arca Russa e il suo unico piano sequenza di 96 minuti con 33 set contemporanei e 4.000 persone tra attori e comparse. Con lui anche lo scrittore triestino Claudio Magris sul palco del Teatro Verdi per l'appuntamento L'intelligenza dei confini, di spicco del Festival Milanesiana organizzato dall'editrice Elisabetta Sgarbi. Nell'evento il tema della 26esima edizione del ciclo lombardo è stato abbinato a quello dell'inizia europea per l'anno in corso. Magris, noto per le riflessioni sul confine, il viaggio e le figure emblematiche di passaggi e incontri, ha letto brani del suo libro Inventarsi una vita. Non solo il legame delle generazioni si spezza, ma anche le generazioni. La parola generazione acquista un altro significato. Sokurov, rinomato anche come osservatore della cultura europea, in dialogo con la curatrice e critica cinematografica Aliona Shumakova, ha parlato di due suoi film poi proiettati, Il sacrificio serale ed Elegia della traversata, e le loro indagini sul dolore, la memoria e il senso del sacro, con riflessioni sull'arte, la vita e il passare del tempo. Perché ad un essere umano è molto importante trattare il suo passato. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Al via oggi il primo dei 5 festival internazionali del folklore del Friuli Venezia Giulia. Ad aprire le danze è la 28esima edizione di Folklorama, promossa dal gruppo folcloristico di Pasian di Prato, che porterà in Friuli Venezia Giulia artisti da 3 paesi stranieri, Austria, Thailandia e Isole Hawaii, i quali si affiancheranno al gruppo di casa. Le municipalità toccate dal ciclo itinerante di spettacoli saranno Cassacco, San Giorgio di Nogaro, Colloredo di Montalbano, Pasian di Prato e Campoformido Bressa. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Walter Vidonis e Eugenio Giuffrida. In redazione ha collaborato Laura Sarasini. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR, il telegiornale alle 14 sul terzo canale TV e l'informazione radiofonica tornerà invece su queste frequenze alle 15. Da Daniele Lettic e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.